Buonasera e benvenuti, questa è Uptown Rockers sulle frequenze multimediali di Railroad Radio Station dalla Leaning City, della la città della Torre Pendente. Come al solito il vostro speaker di fiducia DJ Drago. Ma partiamo subito con un classico pezzo funk, anche se il gruppo che lo esegue non è uno dei soliti gruppi neri americani. Sto parlando dei Level 42, capitanati dal bassista bianco Mark King. Il pezzo in questione si intitola Turn It On. Questi erano i Level 42, come vi ho detto prima, pezzo datato 1981, tratto dall'omonimo album della band, e non so, forse dovrebbe essere il primo album. Comunque, l'intermezzo invece fra la nostra sigla e il pezzo di Level 42 era un'opera di Youssef Lateef, un jazzista, un sassofonista che ha suonato con Miles Davis. Il pezzo si intitolava Blue Rocky ed era datato 1960. Ma adesso passiamo a tutt'altra roba, una roba un po' più lenta, meno funk, meno incalzante. E sto parlando di Lee Fields, un cantante soul della prima ora, che qui viene riscoperto da quel marpione di Leon Michels e dalla sua Truth and Soul. La canzone si intitola Do You Love Me Like You Say You Do ed è tratta dal nuovo album di Lee Fields, My World, datato 2009. We'll be right back. Hey, honey. Ooh. Listen, I got to tell you, it's been too many lonely days. Ooh. And too many sleepless nights. Yeah. Baby, I gave you everything you said to me and what designed. I gave you your time and your space. Yeah. But now you should know when it's all about. Questo era Lee Fields, il soul, la musica dell'anima, una voce straziante che ricorda la schiavitù dei neri mentre raccoglievano il cotone, schiavizzati dai bianchi americani. D'altronde anche nella foto di copertina si vede un Lee Fields con gli anelli, in giacca e cravatta, uno stile molto da cowboy che ricorda più la gente degli stati del sud, degli States. Anche se il disco poi è stato registrato a New York negli studi della Truth and Soul. Ma adesso passiamo a uno dei migliori rappers di tutti i tempi, sto parlando di Tupac. Tupac che andremo a sentire con il pezzo California Love, una delle hit di Dr. Dre, produttore di questo pezzo, che vi faccio ascoltare perché dopo di lui vi farò scoprire uno dei due campioni su cui è stato costruito il beat di questo pezzo. Andiamo a sentire California Love e state all'ascolto di Uptown Rockers. il 1995 quando usciva questo bellissimo singolo di rap music, California Love, di Tupac. E tra l'altro la canzone veniva corredata da un ottimo videoclip ambientato nei paesaggi futuristici di Mad Max, il film con Mel Gibson. Ma per i patiti del sample beat andiamo a scovare il campione su cui Andre Young, in arte Dr. Dre, ha costruito questa bellissima song. E innanzitutto ricordo che Tupac era il figlio di Afeni Shakur, figlio quindi di una Black Panther, una pantera nera, mentre Dr. Dre trovava l'ottimo groove su cui avrebbe realizzato California Love, da un figlio invece, da un bianco, figlio di Woodstock, possiamo dire, figlio della Summer of Love. Sto parlando di Joe Cocker, il pezzo in questione è Woman to Woman, realizzato nel 1972, dove, leggendo tra le righe, noto che il cantante Joe Cocker veniva accompagnato in questa canzone da quattro ottime vocalist di colore. Sto parlando di Gloria Jones, della mitica Viola Willis e di Virginia Ayers e Beverly Gardner. Ma andiamo ad ascoltare Woman to Woman e vi ricordo, restate ancora sintonizzati su Uptown Rockers perché la puntata non è ancora finita. Abbiamo ancora qualche altra canzone e poi subito dopo il mixatone della settimana. Woman to Woman, Joe Cocker. Stasera mettiamo proprio di tutto. E come vi dicevo prima, tra le vocalist di questa canzone c'era anche Viola Willis. Così sono andato subito di fronte alla mia libreria per cercare un suo pezzo da farvi sentire. D'altronde, quando mi balena un'idea in testa, è difficile togliermela così facilmente. Quindi mi sono capitati tre suoi singoli in mano e ho scelto quello forse più recente e anche forse più sconosciuto, perché è un pezzo dal sapore prettamente electro. Dall'inizio degli anni 70 passiamo direttamente a metà degli anni 80, perché questa canzone è datata 1986 e si intitola So Hot For You, e canta Viola Willis e il produttore è un certo Will Power, veramente un sound electro. E sull'acchito di queste note vi voglio ricordare che per due venerdì al mese c'è un appuntamento veramente cool per tutti gli appassionati di black music, ma anche di DJing e sample beat in senso stretto. Sto parlando del Black Friday, che si svolge sempre in quel di Pisa, anzi poco fuori Pisa, una manciata di chilometri dal centro, nei locali della centrale, in zona San Giuliano Terme, località La Fontina. Il primo venerdì e il terzo venerdì del mese trovate in console i bravissimi DJ del Black Friday. Andiamo subito ad ascoltare il prossimo pezzo. So Hot For You, Viola Willis. My doctor couldn't make me feel better, so I've just been laying down. Something deep inside me, it's tearing me all apart. My head just won't find it, 'cause I'm listening to my aching heart. But I know a remedy to get me back on my feet. Yeah, you got it guaranteed to take away this misery. Mm-hmm. You got the medicine that I Viola Willis, So Hot For You, tratto da un singolo del 1986 per l'etichetta Street Wave. E tra l'altro questo non era nemmeno il side one di questo 12 pollici, però siccome l'avevo trovato in un mercatino, quindi è in versione usata, scusate quindi se si sentiva qualche scricchiolio. E avevo notato che il DJ che era il precedente possessore di questo mix aveva sottolineato questo pezzo. In effetti questo pezzo è veramente una kill hit da dance floor. Ma bene, cari amici, siamo arrivati alla conclusione dello speakeraggio di questa puntata. E l'appuntamento è come al solito per mercoledì prossimo. Un po' di news ve le ho date. Abbiamo scoperto che Viola Willis era colei che prestava le sue corde vocali a le voci, le backing vocals di Joe Cocker. E adesso vi spiazzo un po' tutti, perché vi farò sentire una canzone simbolo della mia adolescenza. Sì, perché quando ero un po' più piccolino, ai tempi del liceo, mi piaceva molto quella cozzaglia di generi che poi venne etichettato come crossover. e a mio avviso fra i leader indiscussi di questo genere c'erano i Living Color, sì, proprio loro, la band di colore capitanata da Vernon Reid. L'album in questione, da cui traggo la prossima canzone, si intitola Vivid, e penso che sia il primo album di questo gruppo. Chiaramente, come al solito, è tratto da un vinile della mia collezione, e il pezzo che andiamo ad ascoltare si intitola Which Way to America, e vedo ora nella mutanda, nella Paper Inerts interna, che era prodotto da un certo Mick Jagger, un nome abbastanza conosciuto. Ma ecco a voi l'ultimo pezzo di questa puntata di Uptown Rockers, i Living Color. Color catalog and bonus gift certificate by return mail right away.